serious. Fake, fake, brandy, brandy. Credi che caldo sia cold. Fai lo statman come Jack e sei gli States grazie agli Yankees.